In occasione della drammatica inondazione di Venezia, che si sta consumando in questo novembre 2019, la Scuola delle Donne vuole omaggiare una delle figlie di Venezia, una nostra cara collaboratrice, amica e sorella spirituale, Antonella Barina, Lobaris Nainé, che più di 20 anni fa pubblicò in Venezia questa raccolta di poesie dal titolo profetico Canto dell'acqua alta. Canto dell'acqua alta di Antonella Barina. Parigi, 7 febbraio 1997. Venezia, 14 febbraio 1997. L'acqua alta. L'acqua alta che cos'è? È soltanto la sabbia della nostra Babilonia. 2. Minaccia di abisso. Minaccia di abisso bussa alla mia porta stamane e sciacqua oscure magie. 3. Reitia. Con la luna piena e il vento, Reitia procede e sale. Ai piedi bagnati il vostro golem. 4. Creature d'acqua. Creature d'acqua si nascondono tra i fregi. Ah, la città di sotto. Vergogna e mistero. 5. Cupola dorata. Cupola dorata di Minareto, San Marco nell'acqua. In te perfeziono il mio miraggio. 6. Tesori. Tesori scopre la bassa marea, che l'alta di nuovo cela. Così ci riveliamo a tratti per ricoprirci. 7. Delfino. Delfino di pietra e legna e fuoco. Nel ritrarsi dell'acqua scivola al mare. Madonna Venezia. Venezia, 14 giugno 1997, 16 marzo 2000. Madonna Venezia. Cancrene di sabbia conosco e barene. Isole insospettate. Conosco amori taciuti e leoni che ghermiscono prede. Chi essere? Pavone, ricco d'occhi e di perle, o bove, atterrato, sbranato. Agnello che porta la croce negli occhi di Medusa incastonati nel marmo. Mi impietro. Il divorzio del mare. Venezia. Terminato il giorno della festa della sensa dell'anno 2000. 1. Se tutto immaginiamo e nulla è, potente concrezione di pensiero è il mare, infinito fondo notturno, cheta superficie nera lo trattiene, scintilla di plancton, nell'acqua d'alba gelata tra i covoli un rombo alato in fuga. 2. Sulla sabbia immota nel fondo un cappello nero riposa, strano pesce. Piccole onde dure battono sullo scafo, annunciano tempesta, insette sulla barca che incede, presuntuosa e dorata. Insette! 3. Coda di sirena ho intravisto, nei rii più interni deve essersi perduta. Contare i gabbiani sulle bricole è impresa disperata. Acconta inclusa, uno si invola. A guardia d'acqua pongono i netti. Che sete di giustizia! E non ti posso bere! 4. Sbarrano il passo ai torrenti, aprono dove chiuso, chiudono dove aperto. Dune subacquee parlano di geologie offese inascoltate. Quel ghigno è un sorriso? Dal fondo del mare il pescame beffeggia quel doge smarrito. 5. Osella in mano si fa strabico a pensare quel che deve e non deve dire. Non ne ha mai sentito parlare o non ha prestato orecchio alla leggenda. Beffe si prendono del morto si fanno beffa, non essendo dei loro. 6. Il ragazzo Il custode dell'isola beffeggiano, bevendo e mangiando. Lo inviano a vedere come sta il loro compare. Del morto si fanno beffe. Chi è il ligante sul cui volo si chiusero le acque? Quello che migra sul fondo. 7. Chi è il morto? Colui che riposa sospeso tra terra e cielo nell'acqua, dove l'acqua si incrocia tra Poveglia e Santo Spirito. Qui è sorto Leviatano. Fantasie di sposalizio nel decadere degli imperi, riprendetevi i vostri anelli. 8. Anime dei morti, è morto il mare dentro di noi. A strascico reti rapinano uova e genitrici sotto misura, avanotti e anguille. Coloro che gettarono bombe, pescano bombe, timor di rete. 9. Si è avviluppata da murena fu la mia caviglia, non me ne accorsi. Io credevo diamanti, frammenti di vetro smussati dall'acqua. Vidi il sole sparirti nel grembo. Ti ringrazio per ogni conchiglia sognata e raccolta. 10. Anime dei morti. Tutto restituisci, e ossa e gusci. Schiere di liganti lo inseguono, avviluppano il morto come alghe, lo trascinano nel profondo, angolo di spiaggia con tavola apparecchiata. Il vento stravolge. 11. Dai monti, anguane e naquane, sospinte dal fremito di Zicuta, la smara ungula negli scrigni dove è stata rinchiusa, caravelle di sirene nell'anima delle onde. Alghe lunghe mai viste in laguna e gettano indietro i capelli. 12. Tetis guarda la barca degli uomini. Sapere non è sapienza. O burattini nel gorgo, Tetis dal nome che è un soffio. 13. Qualcuno ha innalzato sculture di legno lavato dal mare, offerte alle lune. Una pinna inclinata procede con corteo di esili onde si spiaggia quando la corrente di Malamocco trascina il ferri dentro la laguna, come sono avida di vento. Dall'introduzione scritta dalla stessa Antonella Barina. Generazioni di pescatori e gondolieri a prora e a poppa hanno indicato le leggi dell'acqua e del vento. Squerarioi, pegolotti e maestri d'ascia beffeggiati dai progettisti. Orafi, scalpellini e indoradori hanno tramandato segni inequivocabili. Finanche Biavarioi, Becheri e Marangoni hanno difeso queste pietre. Ma la Gorà è occupata da sordi che parlano. La nostra Babilonia. Invisibili monache e cortigiane, recluse ed esposte, avevano parlato prima della decadenza. I portaborse continuano a chiamare doge chi governa Venezia. Per questo, per riempire il Canal Grande, alla storica servono le comparse. Nell'insistenza pirotecnica del Redentore si rivela l'assenza di luce interiore. Ascoltate. È lo stesso vento che soffiava 1.000 anni fa, la stessa acqua che sale, lo stesso mare che torna a riprendersi il suo. Lezione per chi vive da dominante. L'acqua nera sullo scalino di casa è il rovescio dell'onda del motoscafo. È tempo di vedere. Ogni anno a Venezia si celebra nella sensa lo sposalizio tra il mare e la città, il dominio di questa su quello. Io ho immaginato che la sottomissione della grande acqua ai bisogni degli uomini debba finire. Tredicesima dei tarocchi è la rinascita. Per liberare il mare bisogna partire dalla montagna. Sorelle anguane, specchi d'acqua di sabasta affogati in bacini artificiali scendono a valle. Nulla invento che non sia già nella tradizione. Narra la leggenda del Cason dei Sette Morti che beffeggiarono il morto e il ragazzo. Nel mito è già inscritto lo svolgersi degli eventi. Io non opero che piccoli esercizi di scrittura profetica. Il dramma politico quotidiano è ora occasione di crescita spirituale. Stando ai margini, si impara a godere di questa bellezza.